utilizzano lunga serie di siliti sisi. Esiste una letteratura missioni cristiana, ambito germanofono. Molti amici in fede, quanto produciamo e distribuiscono trattati, libri gratuiti, cassette e riviste. Spesso non vedono alcun loro successo nell'attività missionaria. Questo scoraggiato può qualcuno, forse, avrà pensato, vale la pena? Non dovrei forse smettere? Continuiamo a ricevere notizie. Le persone testimoniano di essere giunte in Gesù con una alla fede, in cui vi voglio raccontare una storia davvero straordinaria. Tutto è cominciato qualche anno fa in una chiesa battista nel Palazzo di Cristallo a sud di Londra. Eravamo già arrivati alla fine del culto domenicale quando un uomo nelle file di dietro alza la mano e chiede: «Mi scusi, pastore, posso dare la mia breve testimonianza?» Ho guardato l'orologio e gli ho dato 3 minuti di tempo. L'uomo ha cominciato: «L'ometto di George Street. Ti sei mai chiesto ciò che può fare una semplice distribuzione di trattati?» Il seguente articolo del pastore Dave Smethurst, Londra, ci dà una risposta che vale care ore come testimonianza. Si tracato nel libretto. Ho un attrattato, un cassetta. Al di là di questo, un lavoratore nella vigna di Dio non si giudica dalle persone convertite, ma dalla fedeltà mostrata, lavoro nell'adempimento suo, dobbiamo, compito. Continuamente avere davanti agli occhi il fatto che non siamo noi a fare convertire qualcuno. È solo Dio che risveglia il cuore e porta alla fede nel suo Figlio Gesù Cristo. Il fatto che Egli lo faccia continuamente e che può operare con molto o con poco, l'esempio seguente, che deve servire da incoraggiamento tutti coloro che hanno a cuore la distribuzione dei trattati. NL lo mostra subito a raccontare. Fa: «Sono qui da poco. Prima vivevo a Sydney, in Australia. Qualche mese, visitato 11 alcuni parenti e passeggiavo George Street, una strada che parte dal quartiere commerciale di Sydney e si estende fino al residenziale quartiere, denominato Rock. Un uomo, dall'apparenza strana, piccolo di statura e coi capelli bianchi, era uscito da un negozio. Mi mise un trattato in mano e mi chiese: «Mi scusi, signore, lei è salvato? Andrà in cielo?» Stanotte ero stupito di ascoltare queste parole. Nessuno mi aveva mai fatto una domanda simile. Lo ringraziai cordialmente, ma durante il lungo viaggio di ritorno a Londra ero molto confuso. Ho contattato un amico, che grazie a Dio è cristiano, ed egli mi ha condotto a Cristo. Tutti hanno applaudito e salutato cordialmente l'uomo. Nella Battisti amano testimonianze di questo tipo. Comunità. Perché tardi settimana più sono andato a Adelaide, nell'Aide dell'Australia. 10 giorni dopo, proprio durante una serie di conferenze di 3 giorni, in una delle chiese battiste del luogo, una donna è venuta da me per chiedermi dei consigli. Le ho chiesto della sua posizione rispetto a Cristo. Mi ha risposto come segue: «Una volta ho abitato a Sydney e un paio di mesi Prima avevo visitato degli amici. Stavo facendo compere a George Street quando un singolare bassa statura e coi capelli bianchi mi venne incontro all'ingresso di un negozio e mi offrì un trattato. «Scusi, signora, lei è salvata?» Stanotte queste parole mi inquietavano. Tornata nella mia città, Adelaide, ho cercato il pastore di una chiesa battista nelle vicinanze. Dopo convertita, ora posso dire di essere cristiana, colloquio mi dicendomi «ascoltato». Ero molto meravigliato. Due volte in due settimane, e in luoghi così lontani tra loro, stessa testimonianza. Poi andai in un altro culto a Mount Pleasant Church, a Perth, Australia. Le mie occidentale, finite conferenze, l'anziano della chiesa mi invitò a pranzo. Lì cristiano. Mi spiegò. Facevano a 15 anni. Sono venuto in questa chiesa senza avere un vero rapporto con Gesù. Ho fatto come tanti altri. A motivo delle mie capacità imprenditoriali e del mio successo anche la mia influenza aumentava. 3 anni fa mi trovavo in un viaggio d'affari dall'aspetto poco rassicurante. Uscì da un negozio e mi offrì religioso. Sembrava merce di scarto. Sydney, anziano, non chiedendomi «Scusi, signore, lei è salvato? Andrà in cielo se muore stanotte?» Cercai di spiegargli che ero battista, ma volle ascoltarmi. Per tutto il tragitto verso casa da Sydney a Perth, cocevo rabbia. Sperando nella compassione del pastore, gli raccontai di questo strano incontro. Ma lui non era d'accordo con me. Già molti anni prima mi aveva detto che non gli sembrava avessi un vero rapporto con Gesù. Gli aveva ragione. Così, convertito. Fammi anni. Tornai a Londra e parlai alla comunità di Keswick, a Lake District. Li raccontai di straordinarie queste testimonianze. Alla fine delle testimonianze, 4 anziani, pastori circa 30 anni prima, erano stati ascoltato la stessa domanda a George Street. Dopo salvati ai missionari, nelle settimane successive mi recai a un'altra riunione, simile a quella di Keswick, e nei parlai, Caraibi. Anche lì raccontai la stessa testimonianza. Alla fine, circa 15-25 anni prima, erano stati salvati grazie alla stessa domanda di quell'ometto su George Street. A Sydney, 3 missionari, conferenza. Il viaggio successivo mi portò ad Atlanta, Georgia, USA. Lì dovevo parlare a una riunione di cappellani di Marina. Parlai per 3 giorni a oltre 1000 cappellani. Poi il loro direttore mi invitò a pranzo. In quell'occasione gli cristiano. Vita. È stato una specie di miracolo. Ero marinaio su una nave da guerra e conducevo riprovevole. Facevamo delle esercitazioni nel Pacifico. Dovevamo rinnovare le scorte nel porto di Sydney. Ci andare. Lasciammo. Salì fantasma completamente. Ero del tutto sull'autobus, ubriaco, sbagliato e scesi a George Street. Scendendo mi parve di vedere un uomo che, avvicinandosi, mi mise in mano un trattato e mi disse «Marinaio, sei salvato? Andrai kilgaten comansi, enduke kerississe». Andrai auti fississe un'areti il chilve. Andrai in cielo se muori stanotte. La paura di Dio mi fisse se si esci il gaten cuman si sei crisi eigi man si sei immediatamente. Mi prese, sentii subito sobrio, corsi alla nave e chiesi del cappellano, il quale mi aiutò ad andare a Cristo. Presto cominciai con la sua guida a prepararmi per mille responsabilità. Cappellani di marina cercano di evangelizzare marinai. Servizio. Ora, ho decresciuto. Invitò a un indù alla fede. 6 mesi dopo andai a una riuniva conferenza. 5.000 missionari indiani. Sperduta. Zona nell'India nord-orientale. Alla fine, il direttore di missione mi semplice. Desinare nella sua piccola e modesta casa. Chiesi anche a lui come fosse passato dalla religione Cristo. Sono posizione molto privilegiata. Viaggiavo in tutto il mondo per conto della rappresentanza diplomatica indiana. Sono molto contento del perdono, peccati cancellati tramite il sangue di Cristo. Mi vergognerei molto se si sapesse tutto ciò che ho certo commesso. Per periodo, servizio diplomatico mi ha portato a Sydney. Mentre facevo delle compere ed ero carico di giocattoli e vestiti per i miei bambini, George Street, fui fermato da un gentile ometto dai capelli bianchi che mi diede un trattato. Domanda. Scusi, signore, lei è salvato? Stanotte. Ringraziai. Lo schiule le care. Molto, ma la cosa mi lasciò inquieto. Tornato nella mia città natale, cercai il sacerdote, indù, che non poteva aiutarmi, ma mi diede il consiglio di rivolgermi a un missionario della missione alla fine della strada, perché soddisfacesse la posono camminando personale, e mi fece mia curiosità. Fu un buon consiglio perché quel giorno stesso mi convertì a Cristo. Lasciai subito l'induismo e cominciai a prepararmi per l'opera missionaria. Lasciai il servizio diplomatico e oggi, per la grazia di Dio, sono responsabile di tutti questi missionari che insieme hanno condotto a Cristo già 100.000 persone. Luogo. 8 mesi dopo predicai a Sydney, chiesi al pastore se Battista conoscesse un vecchio ometto che distribuiva trattati sulla George Street. Mi confermò. Sì, lo conosco. Il suo nome è M.R. Genur, ma non credo che faccia ancora questo servizio. È diventato vecchio e fragile. 2 giorni dopo ci recammo alla casa. Bussammo alla porta e ci aprì un minuscolo e fragile uomo che ci pregò di accomodarci e ci preparò un tè. Era così fragile. Gli tremavano tanto che il tè si versava nel piattino. Le raccontai testimonianze dei 3 anni passati. All'omino vennero le lacrime agli occhi e cominciò a raccontare la sua storia. Le mani piccola, tutte sua. Almeno ero marinaio su una nave da guerra australiana. Vivevo una vita riprovevole. Ebbi un crollo fisico e un collega che avevo maltrattato non mi lasciò solo e mi aiutò a riprendermi. Mi condusse a Gesù e la mia vita cambiò completamente da un giorno all'altro. Ero così grato a Dio che promisi di dare una semplice testimonianza ogni giorno. 10 persone. Quando Dio mi ridiede le forze, cominciai A volte ero malato e non potevo, ma quando stavo bene cercavo di recuperare il ritardo. Dopo la pensione, il mio posto fisso era alla St. George Street, dove incontravo ogni giorno centinaia di persone. Molti, alcuni, rifiutavano, prendevano trattati. Sono 40 anni che faccio questo servizio e fino a oggi non avevo mai avuto notizie di qualcuno che fosse arrivato a convertirsi in tal modo. Ma i miei comprendiamo con questa storia che significa la vera dedizione. Mostrare 40 anni di gratitudine e amore per Gesù, senza sapere di eventuali successi. Questo semplice ometto, senza talenti particolari, ha dato testimonianza a circa 150.000 persone. Penso che ciò che Dio ha mostrato al pastore di Londra sia solo la punta dell'iceberg. Solo Dio sa quante persone sono state guadagnate ancora a Cristo. M.R. Jenner, che ha svolto un'opera enorme campo missionario, è morto 2 settimane dopo quella visita. Puoi immaginare quale ricompensa ha ottenuto cielo? Dubito che il suo volto in una sia mai comparso rivista cristiana. Dubito anche foto sia mai comparsa nella rivista di Billy Graham. Nessuno, se non un piccolo gruppo di battisti di Sydney, conosceva M.R. Jenner. Ma ti dico che in cielo il suo nome è Il Cielo, famoso. Conosce M.R. Jenner e puoi immaginare, benvenuto, l'accoglienza e la gioia per il suo arrivo nella gloria.